Questi giorni che ci portano alla Pentecoste, la liturgia della parola del nostro rito ambrosiano è molto dolce, molto consolante, parla di amore. Alcune volte noi riteniamo che il Signore sia un po' crudo nei nostri confronti, sia esigente, sia... Alcune volte diciamo persino la parola cattivo. Che il Signore ci conceda di fare l'esperienza del Cantico dei Cantici, dove, lasciando stare il discorso esegetico e di impostazione che sarebbe lungo, però per arrivare alla conclusione che non è sbagliata, questo cantico parla dell'amore di questa ragazza verso questo ragazzo, un amore sponsale, un amore nuziale, un amore di innamoramento, e la Chiesa lo ha sempre interpretato come l'amore tra Dio e il suo popolo, la sua sposa, e tra Dio e l'anima. Non per niente anche la suora è chiamata la sposa di Cristo, no? Ecco, sarebbe proprio da chiedere la grazia, perché è una grazia, di innamorarci di Gesù, di innamorarci anche del Padre e dello Spirito, certamente. È una grazia. E addirittura vi invito a riguardare queste letture lette in questa settimana, dove si parla veramente in un linguaggio d'amore, amoroso. E il Salmo responsoriale, la figlia del re è tutta splendore. Ascolta, figlia, porgi l'orecchio, guarda, ma dimentica i tuoi. Adesso ti aspetta il tuo amore, il re si è invaghito della tua bellezza, lui è il tuo signore, rendigli omaggio. Come dobbiamo chiedere proprio questo dono al Signore? Dice, Signore, ma tu hai parole di amore, hai parole di tenerezza, di paternità nel Vangelo, e noi facciamo così fatica a cogliere la tua tenerezza. Che ci possa concedere lo Spirito Santo, Spirito di sapienza, che ci possa concedere questo dono, il cogliere il nostro rapporto con Gesù, con Dio, il nostro rapporto di tenerezza. D'altra parte anche Paolo nella lettera ai Romani capitolo 8 diceva oggi, noi tante volte non sappiamo che cosa chiedere a Dio, non sappiamo metterci nel rapporto giusto. Lo Spirito Santo che legge i nostri cuori intercede, guardate che bello, con gemiti inesprimibili, che neanche noi riusciamo a decifrare. E colui che scruta i cuori, Dio, sa che cosa desidera lo Spirito, perché egli intercede per noi, per i santi siamo noi cristiani, secondo i disegni di Dio. Io vi auguro, cari cristiani, che lo Spirito Santo ci introduca nell'intimità della Trinità per mezzo della Bibbia, per mezzo della sua parola. Io sto assistendo con stupore a diverse persone di tutte le età, di tutte le vocazioni, gente sposata, lavoratori, giovani, che magari mi mandano un messaggio su WhatsApp e mi dicono: ha visto che bella oggi la seconda lettura? Io magari ancora non l'avevo guardata, perché dico messa magari alla sera. E questi che vanno messa al mattino, l'angialetta, pensate che bella. È possibile anche scambiarci su questi mezzi moderni così demonizzati. È possibile scambiarci pensieri spirituali. Basta due cose. Primo, sperimentarli. E secondo, vincere la vergogna di condividere con dei fratelli di fede. Allora chiediamo, Spirito Santo, donaci la tenerezza di comprendere la tenerezza del nostro Dio e donaci il coraggio di condividere tra noi senza boria, senza superbia, senza vanità, ma proprio con amorevolezza, che è la somma di amore più dolcezza, ma condividere con amorevolezza questi spunti spirituali che lo Spirito Santo ci dà. Perché devo farlo solo io? Io adesso cosa sto facendo? Vi sto dicendo esattamente questo, no? E perché tu non lo fai con me? Perché tu non lo fai con me? Non lo provi? Mi spiace per te. Ti auguro di trovare nella parola di Dio proprio questa dolcezza, questa tenerezza di Dio, e poi almeno col sacerdote condividi.